a tutte le stelle, astri visibili e invisibili, alle coste che sfiorano le onde e accompagnano le navi, alle persone care, conosciute e sconosciute, a te che aspetti la sera per vedere, oltre ogni tuo orizzonte, la vita mi ha mostrato tutti i suoi migliori volti, le sue spietate e innocenti verità. Molti aspirano a trovare il porto dove approdare, la strada che avvolge ogni luce, ogni amore. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato. Il fiume dove bagnare i piedi, accarezzare i suoi capelli, dove sei sempre al posto giusto e niente è superfluo, dove l'unione sacra è da due, nasce un solo amore, ad ognuno questo destino, affinché sia annientato il male, al tuo cielo sia dato respiro, alla tua terra sia data l'aria, alla tua insuperabile dolcezza, forse il vento necessario a sconfiggere l'abitudine che frena il nostro cuore. È il sorriso, la forza dell'anima, è il sorriso, la forza dell'amore. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato. Questo è quanto, questo è tutto. Ti perdono perché ho perdonato, ti amo perché ho amato tutto me stesso, tutto il creato.